Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia. Noi siamo pronti per partire con Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo subito al nostro sommario. Incontinenza, se la nascondi fai il suo gioco. Parliamone insieme per darle scacco matto. Essere sulla stessa lunghezza d'onda non è solo un modo di dire. È arrivata l'ora legale, te ne sei accorto? Oggi parliamo di un disturbo tanto diffuso quanto taciuto, l'incontinenza. E imparare a parlarne significa già cominciare a curarle. Ed è quello che faremo oggi, declinando il problema sia al maschile che al femminile. In linea con noi abbiamo il professor Roberto Carone, direttore della struttura complessa di neurourologia dell'ospedale CTO Maria Adelaide di Torino. Professore, buongiorno. Buongiorno, signora Carbone, buongiorno. In linea abbiamo anche da Padova il professor Vincenzo Ficarra, associato della clinica urologica di Padova. Buongiorno, professore, anche a lei. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Insieme ai nostri esperti affronteremo il problema dal punto di vista clinico. Loro ci aiuteranno ad individuare i fattori di rischio, i campanelli d'allarme, ci aggiorneranno sulle terapie oggi a disposizione, quindi se volete intervenire potete già chiamare l'800 24 00 24. Ma oggi potremo anche avvalerci dei consigli della dottoressa Antonella Biroli, responsabile della riabilitazione neurologica e disfunzione autonoma all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. La dottoressa Biroli insegna tecniche di rieducazione che, potenziando i muscoli del pavimento pelvico, mirano a prevenire il problema o, nel caso fosse già presente, ad attenuarlo, a risolverlo. Allora, io spero che la trasmissione di oggi ci aiuti a far passare due messaggi. Il primo è che l'incontinenza è un problema di salute, quindi non qualcosa di cui vergognarsi e nascondere. Il secondo messaggio che vorrei che arrivasse è che l'incontinenza può essere curata e la qualità di vita nettamente migliorata. Detto questo, mettiamoci subito al lavoro. Vi ricordo il numero per inviare anche i vostri messaggi al 349-238-6666. Allora, inizierei col professor Carone. L'incontinenza urinaria, professore, non è una conseguenza inevitabile dell'invecchiamento, perché dagli atleti alle mamme questo problema affligge uomini e donne di tutte le età e di tutti i ceti, indipendentemente dal loro stile di vita, professore. Certamente, l'incontinenza non è una condizione, come a torto viene ritenuto, che caratterizza l'invecchiamento. E giustamente è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ultimo tabù da battere, perché non bisogna vergognarsi. L'altro tabù che è stato finalmente abbattuto era quello dell'impotenza sessuale, e parlandone, anche quel tabù è crollato. È una patologia che colpisce sia gli uomini che le donne, in tutte le età, in particolare nella donna, dove il fenomeno è molto più diffuso. L'incontinenza può colpire anche donne molto giovani, addirittura bambine. Quindi, professor Ficarra, vengo a lei. Una donna su tre è incontinente, quindi i numeri sono alti, ma il professor Carone ci ha dato un dato che ci fa riflettere. Può colpire anche donne molto giovani, addirittura anche le bambine. Comunque è un problema che spesso si pensa sia solo femminile, invece abbiamo visto che può interessare anche gli uomini. Sicuramente le donne sono maggiormente interessate dal problema dell'incontinenza urinaria. Sappiamo che la prevalenza dell'incontinenza urinaria nel sesso femminile può raggiungere anche il 70%, di contro la prevalenza nel soggetto di sesso maschile può raggiungere un massimo del 40%. È chiaro che le donne presentano una serie di elementi che possono predisporre all'insorgenza dell'incontinenza urinaria, per esempio la gravidanza, per esempio l'espletamento del parto per via vaginale. Qualcuno dice, anche se questo aspetto non è più così sicuro in letteratura, che anche la menopausa possa contribuire all'insorgenza dell'incontinenza urinaria nelle donne. Studi più recenti sottolineano l'impatto, per esempio, di patologie quali il diabete mellito, e allo stesso tempo sappiamo che le donne che hanno un peso corporeo più elevato sono chiaramente più predisposte a poter avere questo tipo di problema. Più controverso è l'aspetto aspetto legato per esempio ad abitudini voluttuarie quali il fumo di sigaretta, di per sé una pratica che andrebbe comunque evitata per tutta una serie di altre patologie, ma probabilmente il fumo di sigaretta può peggiorare la situazione respiratoria di alcune delle nostre pazienti, e quindi la tosse può incidere maggiormente ed accentuare il problema legato all'incontinenza urinaria. Dottoressa Biroli, proviamo a trovare con lei le parole adatte a descrivere il problema. La definizione condivisa a livello internazionale di incontinenza urinaria identifica come una perdita involontaria di urina in tempi e luoghi inappropriati, in grado tale da costituire anche un problema igienico. Questo è quello che si legge sui libri, ma come viene riferito il disturbo da chi ne soffre? Beh, una prima cosa da dire è che queste perdite involontarie di urine possono essere di entità variabile, da poche gocce a quantità abbondanti e con una frequenza variabile, da molte volte al giorno quasi continuativa, a perdite decisamente sporadiche. Per cui il modo con cui vengono riferite non è necessariamente la definizione che noi diamo di incontinenza. La donna ci dice: perdo un po' di pipì, la perdo magari con il colpo di tosse, la perdo oppure la perdo quando non riesco a trattenere lo stimolo. È un po' da sfatare quell'immaginario collettivo in cui si pensa che essere incontinenti significhi perdere totalmente il controllo dell'urina. Anche poche gocce di urina possono essere incontinenza. E ci sono vari tipi di incontinenza, ne parleremo nel corso della trasmissione, ma direi di procedere per ordine. Ci facciamo aiutare dalla nostra scheda, che abbiamo strutturato come una sorta di autotest, naturalmente non fa diagnosi, ma credo possa aiutarci a farci comprendere se i sintomi che avvertiamo o che stiamo trascurando o a cui abbiamo dato una nostra interpretazione debbano essere riferiti al medico. Negli ultimi 3 mesi hai avuto perdite involontarie di urina, compiendo sforzi anche piccoli o tossendo o starnutendo o anche solo ridendo? In genere vai ad urinare più di 8 volte durante il giorno? Oppure ti capita di alzarti più di una volta per notte? Ti succede di avere un urgente, improvviso e irrefrenabile desiderio di urinare? Bene, con questa sorta di test di autovalutazione vi invito a scriverci 349-238-6666 o a chiamarci al nostro numero verde 824-0024. I nostri ospiti rimangono a nostra completa disposizione sino al termine della trasmissione. Una mela al giorno. C'è una frase che usiamo generalmente per sottolineare l'intesa che abbiamo con una persona. Diciamo: siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Bene, c'è qualcosa di vero e direi di scientificamente provato dietro questa affermazione. Ce lo spiega la dottoressa Erika Sibillo, che è tornata a trovarci, medico ed esperta in musicoterapia. Buongiorno dottoressa Sibillo, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti voi. Sì, questo è uno studio veramente molto interessante che arriva questa volta da Berlino e dall'Università di Salisburgo, pubblicato da pochissimo su una rivista di neuroscienza. Ora, noi sappiamo che le attività cerebrali che sono supportate dalle nostre relazioni sociali ultimamente sono diventate oggetto di studio nell'ambito scientifico molto importanti, ma del resto, se ci pensiamo bene, ogni giorno noi abbiamo bisogno di coordinare le nostre azioni con quelle degli altri. Un esempio: quando camminiamo si dice insieme allo stesso passo, piuttosto che pratichiamo uno sport collettivo o andiamo a ballare insieme, ma anche per esempio quando ci guardiamo negli occhi, pensate, non so, una coppia di fidanzati, per esempio. Allora, i ricercatori che cosa hanno fatto? Proprio per studiare questa sintonia che si crea nella relazione con gli altri, hanno pensato bene di andare a studiare il cervello di un emblema di questa sintonia, cioè dei musicisti, e in particolare, pensate un po', sono andati a studiare il cervello dei chitarristi. Hanno preso 8 coppie di chitarristi, hanno fatto suonare loro per ben 60 volte un brano di musica jazz, e nel frattempo, aiutati dall'elettroencefalogramma, hanno voluto registrarne l'attività elettrica. Voi vi ricordate che avevamo parlato tempo addietro delle onde cerebrali che si formano nel nostro cervello quando, per esempio, non so, dormiamo, piuttosto che stiamo lavorando o siamo impegnati in operazioni in cui dobbiamo concentrarci. Ecco, in questo caso i ricercatori sono andati oltre, cioè hanno registrato che mentre i chitarristi suonavano insieme, le onde cerebrali si sincronizzavano, cioè arrivavano ad essere del tutto simili proprio durante l'esecuzione del brano, e questa sincronizzazione si manifestava addirittura nella fase preparatoria all'esecuzione del brano stesso, quando per esempio con un metronomo veniva battuto il tempo, ma il massimo si raggiungeva proprio nel momento in cui i suonatori eseguivano il brano insieme. Sarà forse allora per questo, dottoressa Sibillo, che quando andiamo a sentire un concerto osserviamo che i musicisti cominciano a suonare alcune note di prova mentre accordano i loro strumenti, ma forse questa è un'altra storia. Tornando alla nostra ricerca, i ricercatori sono riusciti ad individuare le aree cerebrali coinvolte? Sì, sono arrivati anche a visualizzare le aree principali, che sono le aree frontali e quelle centrali, in cui poi hanno luogo tutti quei processi di programmazione, oppure quando noi dobbiamo risolvere o gestire i nostri problemi nell'ambito spazio-temporale. Del resto queste aree erano già state studiate dai ricercatori svedesi, da una ricerca bellissima, avevamo parlato del cervello di Einstein. Mi ricordo. Dove avevamo detto che chi è in grado di tenere il ritmo sviluppa maggiormente le facoltà intellettive. Bene, quelle stesse aree ancora una volta sono coinvolte nei processi di sincronizzazione, cioè quando noi ci relazioniamo con gli altri, ricordatevi che le vostre onde cerebrali si stanno mettendo insieme, si stanno accoppiando, e pare che questa sincronizzazione abbia proprio un ruolo non trascurabile sia nell'iniziare ma anche nel mantenere la coordinazione nelle nostre relazioni sociali. E quindi la frase che lei ha detto all'inizio, ma oggi saremo sulla stessa lunghezza d'onda, bene, questa volta ha proprio una spiegazione scientifica. Dottoressa Sibillo, grazie per essere stata con noi e spero che lei incontri sempre più di frequente persone con cui essere nella stessa lunghezza d'onda. È lo stesso augurio che faccio a tutti voi e un suggerimento: suonate uno strumento, farà bene a tutti. Dottoressa Sibillo, a presto, buona giornata. Grazie a voi. Pronto soccorso. Oggi parliamo di incontinenza, 824 0024, questo è il numero verde per intervenire in diretta. Incontinenza è una parola che, lo sappiamo, suona male, descrive un fenomeno molto diffuso, soprattutto tra le donne, è l'incapacità di trattenere l'urina. A volte basta uno starnuto, una risata, sollevare un peso. Parliamone oggi liberamente, perché abbiamo visto che non serve nulla a fare gli struzzi, anzi chiamateci per imparare a uscire da questo problema e magari imparare anche a prevenirlo. I nostri ospiti sono in linea con noi, il professor Roberto Carone, il professor Ficarra e la dottoressa Broli. Biroli, in linea con noi abbiamo già Paolo da Torino. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno. Senta, la mia domanda è questa: siccome io faccio il rappresentante, sì, e sono spesso in macchina, sono sempre in macchina, non è proprio l'incontinenza, però il problema è che perdo quasi lo stimolo di andare in bagno se non scendo dalla macchina, mentre magari la domenica o il sabato che sono a casa vado in bagno regolarmente. Volevo chiedere di cosa si può trattare. Grazie Paolo. Professor Carone. Certo, ma veda, la gran parte dei disturbi menzionali e quindi anche l'incontinenza derivano da delle scorrette abitudini. Sì. Ora, specialmente per chi viaggia molto in macchina, c'è la tendenza, è comprensibile, di rinviare la menzione, di andare tanto manca un'ora ad arrivare, vado dopo, eccetera. Tutto questo può determinare degli scompensi nei complessi meccanismi che regolano la menzione, che poi possono portare a forme di incontinenza o altri disturbi menzionali. Quindi occorre ricordarsi, come dovremmo fare anche per l'intestino ma anche per la vescica, di andare a urinare al primo stimolo che abbiamo e non avere la tendenza, come molte donne hanno, ma spesso anche uomini che viaggiano molto in macchina, a tenere troppo, a rinviare la menzione. Questo è un errore di abitudine che può poi determinare dei veri e propri scompensi a livello vescicale. Dottoressa Biroli, lei che insegna la rieducazione, vuole aggiungere magari un consiglio a quanto già spiegato dal professor Carone? Direi che ha centrato perfettamente il punto, quello delle abitudini menzionali corrette. Un piccolo strumento che è facilissimo da utilizzare anche da parte della persona è quello di provare, per esempio, a tenere sott'occhio per un paio di giorni quando va a urinare, se possibile anche per quanto urina, cioè proprio misurarla. Questo consente di capire se si va a urinare troppo spesso o troppo poco in relazione ai quantitativi di urina che noi produciamo, ed è uno strumento facilissimo che spesso poi noi chiediamo anche come prima cosa alla prima visita con il paziente. Valeria ci chiama da Varese, buongiorno Valeria. Pronto, buongiorno. Ecco, io ho cominciato, ho 44 anni e ho cominciato a soffrire di incontinenza dopo il secondo parto, poi sì, ho avuto un terzo e non è un'incontinenza diciamo frequentissima, solo sotto stress, quindi uno starnuto, un colpo di tosse e non sempre accade. Ne ho parlato sia col mio medico, col mio ginecologo, ho fatto anche una visita urologica, però non è stata data una grande importanza. Mi hanno fatto vedere questi esercizi per il pavimento pelvico e devo dire che sono un po' pigre, nel senso che sono esercizi piuttosto noiosi e anche non facili da sentire. E quindi mi chiedevo se esiste solo questo per poter ovviare questo problema, se ci sono altre metodologie e se c'è uno sport in particolare che praticato può essere d'aiuto a questo problema. Grazie Valeria. Professor Ficarra, vogliamo aiutare Valeria, diamo quindi sicuramente il postpartum è un momento in cui una donna può venire a contatto di questo problema, può confrontarsi con queste perdite di urina. Valeria ci raccontava, non è costante ma ogni tanto capita. Quali indicazioni si possono dare? Valeria è un esempio piuttosto classico di pazienti che si rivolgono al nostro ambulatorio, una donna di 44 anni che ha avuto le sue 3 gravidanze e che in conseguenza delle gravidanze ha poi sviluppato quella che possiamo definire dai sintomi che ci ha riferito un'incontinenza urinaria da sforzo. E ci ha fatto vedere proprio come non sempre questo problema si manifesta, però è un problema che evidentemente condiziona la vita della nostra amica, perché lei stessa si è rivolta più volte ai medici, al ginecologo, all'urologo per cercare di trovare delle soluzioni. Sicuramente la riabilitazione del piano perineale può essere un ottimo ausilio, sicuramente un ausilio poco invasivo che può dare anche in una percentuale elevata dei casi dei buoni risultati. Se questi risultati non sono raggiunti perché non c'è una sufficiente compliance da parte della paziente o perché probabilmente il caso si presenta un po' più complesso, chiaramente bisogna passare a delle procedure, degli interventi un po' più complessi. Purtroppo nell'ambito dell'incontinenza urinaria da sforzo non abbiamo la possibilità di utilizzare degli ausili farmacologici, quindi di poter praticare delle valide terapie mediche, però esistono una serie di possibilità di interventi chirurgici poco invasivi che possono essere eseguiti anche per via vaginale, quindi con un minimo impatto dal punto di vista della invasività e che possono risolvere molto bene questo tipo di problema. Dottoressa Biroli, vengo a lei perché Valeria ci diceva mi sono stati descritti e insegnati degli esercizi ma sono un po' noiosi e quindi poi uno nel quotidiano preso da mille cose non li fa, e chiedeva appunto se c'è anche un'attività sportiva che in qualche modo possa agire, tonificare la muscolatura. Dottoressa Biroli. Allora, io punterei l'attenzione sul fatto che la Nostra Signora ha detto due cose importanti, che gli esercizi sono noiosi e che sono difficili. Sì. Molto spesso la semplice istruzione verbale o un'istruzione molto rapida come viene fatta durante una nostra prima visita non è sufficiente per insegnare i movimenti corretti. La rieducazione è un procedimento che può prendere decisamente più tempo per insegnare i movimenti corretti e le strategie corrette. Quindi il primo aspetto sulla difficoltà è relativo al fatto che è opportuno seguire la persona per un pochino di tempo. Il sì. Noioso diventa poi relativo, perché una volta che si sono imparate determinate strategie sono applicabili, noi spesso ridendo diciamo anche mentre siete in coda in posta, sì. Per cui non diventa necessario farli proprio in momenti predefiniti ma nei momenti morti. Invece per quanto riguarda l'attività sportiva non ci sono attività sportive che fanno bene necessariamente all'incontinenza, ci sono delle attività sportive che possono invece facilitare gli episodi di incontinenza, che sono le attività sportive di impatto con sforzo. Certo. Dottoressa Biroli, ma lei nel corso della trasmissione ci darà qualche consiglio pratico, ci insegna? Io non parlerei di rieducazione in questo caso che viene fatta, no? Dopo aver fatto una visita al paziente deve essere proprio mirata e insegnata, ma direi un passo prima, una ginnastica, possiamo definirla così, per mantenere il tono muscolare adeguato? Certo. Possiamo iniziare già subito? Che ma così ci mettiamo al lavoro? Certamente. Magari qualcuno allora... imposta, dottoressa Biroli, e ci sta seguendo con le cuffie, chissà mai. Dunque, all'inizio ci va un po' di concentrazione, proprio perché abbiamo bisogno di prendere coscienza di una parte del corpo che normalmente non siamo così abituati a sentire e ad allenare. Per cui in un primo momento è possibile mettersi in posizione semisdraiata sul proprio letto, su un divano, con le gambe piegate e leggermente divaricate, e si può cercare di contrarre i muscoli che chiudono il nostro bacino dal basso, che quindi aiutano a trattenere la pipì e che chiudono la vagina, e quindi si può immaginare di dover trattenere la pipì o di chiudere la vagina. Durante questo tentativo bisogna anche cercare di mantenere un ritmo del respiro regolare senza bloccare il fiato, e questo ci può aiutare a sentire meglio la contrazione e a non rimanere invece contratti in altre parti del corpo che potrebbero cercare di aiutare questa nostra muscolatura pelvica di cui non siamo ancora ben coscienti. Potremmo cercare di stringere le gambe o di stringere i glutei. Ecco, invece no, l'attenzione va focalizzata su un piccolo movimento a livello proprio di immaginare di chiudere come per dover trattenere la pipì. Questo per dare un'immagine intanto, dei nostri muscoli. Esatto, intanto prendiamo confidenza con questi muscoli. Eccoci, siamo tornati insieme. Oggi parliamo di incontinenza, segnali premonitori, fattori di rischio. Andremo a capire come si affronta il problema, ma ci aspetta da un po' Gherardo da Foggia. Gherardo, mi scuso, l'ho fatto attendere. Buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione e per il servizio che date. La mia domanda è la seguente. Io, mio figlio di 10 anni, soffre di incontinenza solo di notte. Non siamo riusciti a togliergli il pannolino, l'anno scorso gli abbiamo fatto una serie di esami. Sì, Gerardo, la stiamo sentendo. Una serie di esami al policlinico dove abbiamo fatto tutte le contare tutto le urine di ogni giorno. Ero misurato la pressione, insomma, ci hanno dato una cura e ci hanno detto che col crescere il bambino sicuramente si mette a posto. Però ancora ad oggi non abbiamo trovato una soluzione, perché il bambino la notte fa la pipì e questo magari alla lunga lo limita un po', perché c'è andare a dormire magari a casa dell'amico, ha paura di bagnare il letto. Gerardo, l'affido al professor Carone. Professore, che cosa può essere questo? L'argomento che ha sollevato il signore, cioè l'incontinenza che si manifesta esclusivamente durante le ore notturne, durante il sonno, si chiama inuresi. Sì. È un problema vecchio come il mondo, un problema molto frequente. Di fronte a un bambino, perché ancora di bambino stiamo parlando, con enuresi, il problema clinico, cioè il problema dell'urologo, è quello di escludere che esistano delle cause organiche che possano sostenere questo problema. Se questo viene fatto, cioè vengono escluse delle cause malformative, per esempio, o cause neurologiche, come mi sembra sia stato escluso nel caso del bambino che è stato presentato dal papà, allora è un problema funzionale. Il problema funzionale può essere affrontato sia dal punto di vista farmacologico, ma nella grandissima maggioranza dei casi il problema tende a risolversi spontaneamente. Andiamo ad Andrea, che ci chiama da Treviso. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. Eccoci qui. Io ho questo genere di problema. Dopo aver urinato, sovente ho delle perdite negli immediati 2 minuti successivi. Allora, infatti nonostante, mi scusi? Sì, dicevo, nonostante, ormai avendo capito il problema, io nel momento in cui urino aspetto sempre per vedere di aver urinato del tutto. Professor Ficarra, questa sensazione di non svuotare completamente la vescica è un segnale di premonitore di incontinenza o c'è già il problema? Che cosa si può fare? Ma io credo dalla voce dell'ascoltatore sembra giovane, sì. È estremamente giovane, per cui credo che questo non sia da inquadrare come un segno premonitore di una possibile incontinenza urinaria che si svilupperà di qui a poco, quanto come un disturbo che viene classificato come disturbo a carico della fase post-minzionale. Il paziente ha sottolineato come completata la minzione, il suo fastidio, il suo problema è legato a questa fastidiosa perdita di urine a completamento della minzione, quindi dopo che ha completato la minzione. Sono delle gocce di urina che probabilmente si raccolgono lungo il canale dell'uretra e che una volta completata la minzione continuano a fuoriuscire. In questo caso sarebbe indicato soprattutto fare degli accertamenti per studiare attentamente la fase di svuotamento di questo paziente, studiare eventualmente l'uretra di questo paziente giovane per andare a identificare, eventualmente escludere la possibilità di patologie organiche, peraltro facilmente curabili, che possono essere appunto responsabili di questo tipo di disturbo. Dottoressa Biroli, abbiamo anticipato che ci sono delle forme diverse di incontinenza. Molte ascoltatrici mi stanno segnalando perdite di urina quando sollevano un peso oppure solo quando starnutiscono. Sappiamo che questa viene chiamata incontinenza da? Da sforzo. Tipicamente. Ecco, sì. In questi casi una ginnastica, una rieducazione nel caso il problema venga diagnosticato dal medico può essere utile nelle fasi iniziali? Basta la ginnastica dei muscoli del pavimento pelvico? Allora, è assolutamente importante che ci sia, come dicevamo prima, un'adeguata conoscenza del proprio corpo. Se c'è questa conoscenza, c'è anche la capacità di compensare gli aumenti di pressione addominale, come quando solleviamo il bambino, come quando diamo un colpo di tosse, come quando facciamo il salto in palestra, che sono i momenti in cui più frequentemente ci sono le perdite. Effettivamente, attivare i muscoli dell'area pelvica e fare il movimento nello schema corretto ci può consentire di non avere queste piccole perdite legate allo sforzo. Andiamo a Roma, ci chiama Anna. Buongiorno Anna. Buongiorno, io ho chiamato la vostra trasmissione per avere diciamo delle conoscenze in più. Io sono circa 4 anni che mi sono accorta di essere incontinente, sì. Soprattutto quando vado di corsa, quando starnutisco oppure tossisco, non fumo. Comunque ho acquistato da circa 3 mesi un elettrostimolatore, sì. E diciamo ho visto che la corretta posizione degli elettrodi va dietro la schiena fino alla parte della vagina, insomma, perché è un elettrostimolatore esterno. Volevo sapere se questa terapia vai da te sarà sì, gliel'ha consigliata qualcuno? No, non sono andata da un medico. Professor Carone. No, assolutamente siamo nel torto. Siamo nel torto. L'incontinenza urinaria da sforzo in primis si cura con la riabilitazione, come ha più volte insistito la dottoressa Biroli. Però la riabilitazione, che si avvale di tante tecniche, tra cui anche l'elettrostimolazione, deve essere inserita in un programma ben stabilito e seguire, effettuare, come spesso vediamo, delle elettrostimolazioni così non inserite in un progetto, in un programma riabilitativo, è estremamente sbagliato e scorretto. Tutte le linee guida dicono questo: di fronte ad un'incontinenza da sforzo, la prima terapia è quella riabilitativa, correttamente eseguita. Se la terapia riabilitativa non funziona, si arriva alla terapia chirurgica mini-invasiva, come il professor Ficarra giustamente sottolineava. Ma eseguire queste manovre, oltretutto di elettrostimolazione eseguita, se ho capito bene, in maniera non adeguata, così solitamente non servono veramente a niente. Dottoressa Biroli, le tecniche che lei ci ha illustrato rapidamente, alcuni ascoltatori mi dicono sono molto simili, anche a me sembrano, a delle tecniche, a delle posizioni dello yoga. Può in un certo senso frequentare un corso di yoga può essere utile ad acquisire la consapevolezza dei nostri muscoli e quindi agendo anche poi sulla respirazione a tonificarli? Lei ha centrato bene il discorso, la respirazione. Allora, delle tecniche di yoga naturalmente bene eseguite, sono delle tecniche che possono andare a migliorare la consapevolezza di muscoli del pavimento pelvico, e non a caso questi muscoli si chiamano anche in parte diaframma pelvico, sì. Perché così come il diaframma respiratorio va ad agire come uno stantuffo che ci consente di respirare, il diaframma pelvico risponde ai movimenti del diaframma respiratorio e quindi sì, può migliorare la consapevolezza del proprio corpo. Ovviamente non è sufficiente in maniera specifica laddove ci sia una riabilitazione da fare, ma direi che assolutamente lo yoga è, tra tutte le attività che possono essere svolte, quella che più da vicino ci consente di aumentare la consapevolezza del pavimento pelvico. Andiamo a Trieste, ci aspetta Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie di avermi chiamato e faccio subito la domanda. Io ho 50 anni, di recente ho fatto sia visita urologica che visita, un esame del sangue, esame delle urine. A livello di prostata non è stato segnalato nulla. Ho dei sintomi però che ormai durano da anni, da quando ho cambiato lavoro, faccio un lavoro pesante, sono sempre al camion, guido molto, sto molto seduto e faccio anche sforzi molto intensi e prolungati. Però ultimamente la situazione peggiora, nel senso che ho proprio lo stimolo qualche volta che sento sempre più frequente, diventa quasi, anzi non quasi, intrattenibile, qualche volta sono intrattenibile. Sì. E anche sotto sforzo comincio a sentire delle piccole perdite qualche certo. volta. Quindi io urgenza, medico, sì, quindi mi scusi Massimo, lei sotto, cioè, ha un'urgenza menzionale e trova che ha delle perdite adesso anche sotto sforzo. Proprio sì, cosa recentissima, anche sotto sforzo, ma gli sforzi sono veramente pesanti qualche volta anche, ma più che altro mi preoccupava l'urgenza frequente durante il giorno, al quale non ero abituato. Siamo tornati, professor Carone. Il nostro amico ci descriveva una situazione che è per lui un problema da qualche tempo e che adesso ultimamente si modifica. Prima un'incontinenza, possiamo chiamarla da urgenza, che si associa adesso anche a un'incontinenza da sforzo. Due termini che abbiamo spiegato e che non vanno, sono molto chiari. Quindi il bisogno impellente di fare pipì, di non arrivare in tempo, oppure perdita di urine quando noi solleviamo un peso, facciamo uno sforzo. Professore. Sì, quindi nel caso specifico, verosimilmente da un punto di vista clinico, potremmo parlare di un'incontinenza mista, sì. perché sono presenti entrambi i sintomi, sia quelli che definiamo genericamente della cosiddetta vescica iperattiva, cioè questa sindrome da urgenza menzionale, sia l'incontinenza da sforzo. Ora, nel maschio, in un maschio giovane però di 50 anni, non può non inserirsi in questo discorso il problema della prostata. Sì. Se ho capito bene, il signore è un signore anche lui che viaggia molto sul certo. camion, eccetera, e il fatto infiammatorio, prostatico, in chi sta sempre seduto alla guida, eccetera, può sicuramente giocare un ruolo importante nella patogenesi, cioè nell'instaurarsi di questi sintomi. Quindi la prima cosa che farei nel caso specifico è una valutazione urologica per valutare se la prostata, che non ha problemi, perché lui ha detto ha fatto tutti gli esami, non sì. ha problemi di tumore o di ingrossamento, ma può esserci un problema di tipo infiammatorio a livello prostatico. In questo caso? In questo caso specifico dovrà instaurare una terapia per la cosiddetta prostatite, basata essenzialmente su terapia antinfiammatoria ed antibiotica. Però questo è a testimonianza che il problema dell'incontinenza da sforzo è un problema quasi esclusivamente femminile, sì. Se non in casi particolari che poi vedremo. Il problema dell'urgenza, cioè della vescica iperattiva, è invece un problema che riscontriamo quasi in pari misura sia negli uomini che nelle donne. Ci sono uomini che sono stati sottoposti ad un intervento alla prostata, tra gli effetti collaterali, tra virgolette, che poi sono veramente pesanti, c'è pronto a professore l'incontinenza. Certo, si può certo. fare qualche cosa? Si può evitare, si può arginare? L'incontinenza da sforzo è presente anche nell'uomo, però nella grandissima maggioranza dei casi l'incontinenza da sforzo si manifesta dopo una chirurgia eseguita per un problema prostatico, e non una semplice chirurgia per una patologia benigna della prostata, ma dopo una chirurgia per una patologia maligna, cioè sì. dopo un intervento importante, radicale, di prostatectomia radicale. In questi casi purtroppo l'incidenza dell'incontinenza da sforzo è parecchio rilevante. ed è molto invalidante nell'uomo, forse ancora più invalidante che nella donna. Sicuramente anche nell'uomo si può e si deve fare qualcosa, è sbagliato tenersi il problema e considerarlo quasi una condizione inevitabile dopo l'intervento sulla prostata. Anche sull'uomo si agisce prima con la riabilitazione e poi successivamente, passato almeno un anno dalla chirurgia prostatica, si possono prendere in considerazione degli interventi chirurgici, anche questi poco invasivi, per risolvere il problema. Professor Ficarra, a proposito di interventi poco invasivi, vogliamo parlarne? Siamo in chiusura di trasmissione per dare anche un messaggio a chi si sta confrontando con questo problema e sta pensando all'intervento? Mentre tornerei un attimo indietro sulla incontinenza da sforzo femminile. Oggi molte di donne, soprattutto giovani donne, sono cambiate un po' le abitudini, le donne giovani hanno attività, svolgono le loro attività in palestra, sono molto più attive e soprattutto hanno capito fortunatamente che il problema dell'incontinenza può essere affrontato nella maniera più corretta e quindi talora sono infastidite anche da piccole perdite di urina e si rivolgono a noi per cercare di risolvere questo sì. tipo di problema. Laddove gli esercizi, la fisioterapia non ha avuto degli ottimi risultati, noi possiamo proporre una chirurgia veramente mini-invasiva che consiste nel posizionamento di alcune bendelette sotto l'uretra, a sostegno dell'uretra, per migliorare il sostegno dell'uretra e quindi evitare l'incontinenza urinaria. Questi interventi si possono eseguire in anestesia locale o in anestesia loco-regionale e prevedono una degenza proprio minima di massimo 1-2 giorni. Per cui e risolvono definitivamente il problema? In una elevata percentuale dei casi questo problema può essere in questa maniera completamente risolto, per cui è un'ulteriore iniezione di fiducia certo. nei confronti di queste donne che hanno questo tipo di problema ad affrontarlo, perché effettivamente abbiamo la possibilità di poterlo risolvere. Ringrazio allora i miei ospiti, speriamo di aver contribuito con questa trasmissione ad affrontare il problema, a dire a chi ne soffre parlane con il medico. C'è poi un'equipe di specialisti, abbiamo avuto anche la dottoressa Biroli che appunto come insegna la rieducazione, poi entrano in azione anche fisioterapiste, tutta un'equipe pronta a prendervi cura del vostro problema per evitare che diventi veramente un freno a mano nella vostra vita. Professor Carone, professor Ficarra, dottoressa Biroli, grazie per essere state con noi, buona giornata. Grazie a lei, buongiorno. E adesso invece saluto il professor Roberto Manfredini, buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Direttore dell'unità operativa di medicina interna all'ospedale Delta SLAS. Non riesco a dirlo professor Manfredini. Ferrara. Senta professore, oggi è lunedì, un giorno un po' difficile, si inizia la settimana, è difficile anche un po' per la nostra salute, ne avevamo parlato con lei, e questo è il primo lunedì in cui ci misuriamo con l'ora legale. Queste due variabili rappresentano un aggravante messe insieme? Beh, guardi, il lunedì giustamente, come ha ricordato, è un giorno critico, lo sappiamo tutti perché non ci piace il lunedì, comunque no. È un giorno critico per le malattie cardiovascolari, infatti parecchi lavori ormai hanno dimostrato che l'infarto, l'ictus prediligono, hanno un'incidenza maggiore lunedì. Per il cocktail con l'ora legale, in verità c'è uno studio svedese uscito pochi mesi fa, però su un'importantissima rivista, che avrebbe evidenziato un aumento del 5% della frequenza degli infarti nei due lunedì immediatamente successivi il cambio dell'ora legale, sia diciamo all'andata che al ritorno. Però è diciamo che è un unico studio e per tutto quello che sappiamo noi, in verità, il lunedì è un giorno critico, senza una grande differenza, ecco, dal lunedì dell'ora legale. Non sarei così terrorista, i disturbi magari sono altri. Senta, professore, quest'ora legale che abbiamo aspettato perché le giornate ci sembrano più lunghe e possiamo godercele di più, quando si esce anche dall'ufficio, si torna dal lavoro, c'è ancora un pezzo, no, di giornata da vivere. Certo. E quindi questo ci tira sicuramente sul morale. Sì, è vero. Diciamo che se proprio vogliamo, qualcuno lo soffre effettivamente, perché potremmo definire l'ora legale un micro fuso orario di un'ora. Sì. In questo caso verso est, perché abbiamo allungato la giornata sabato notte, e quindi dei due volare verso est o spostarsi è un pochino più sfavorevole. Cosa vuol dire? Vuol dire che ecco, per qualche giorno le persone normali non si accorgono di nulla, chi è proprio all'odola magari alla sera fa un po' più fatica perché c'è più luce, e il gufo magari al mattino che trova il buio fa un pochino più fatica. Questo occorreranno alcuni giorni per assestarsi, poi a dire il vero il tempo era così brutto che tanto sole non l'abbiamo visto. Vero, non ce ne siamo accorte, oggi dobbiamo solo confrontarci con l'inizio della settimana, però ormai l'abbiamo iniziata, pensiamo già a domani. È positivo. Vero? Professore, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buona giornata. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata anche a voi che ci avete ascoltato. Come sempre, l'appuntamento torna domani dopo il GR delle 11. Vi aspetto, buona giornata.